Poi insieme a te vado, l'un tour tu che c'ha, a stelle si ma, ci vedo a tash, ne devo a tash, ma il cuore ci offre un muo, e c'è un lato, e me perdi di muo, Antoni, amori, muo da sciuri ne fa, non che tu a tash.